Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sri Lanka con Emanuele Trevi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. È un'inaspettata giornata di sole per me che vengo dalla nebbia di Pavia. Non mi sembra vero di respirare un po' di primavera anche a fine gennaio, ma sono a Roma e questo spesso regala la capitale anche fuori stagione. Sto per andare da Emanuele Trevi, che mi parlerà dello Sri Lanka. Nome: Sri Lanka. Capitale amministrativa: Sri Jayawardenapura Kotte. Capitale commerciale: Colombo. Confini: si trova nell'Oceano Indiano con il Golfo del Bengala a nord-est, separata dal subcontinente indiano tramite il Golfo di Mannara e lo Stretto di Palk. Superficie: 65.610 km². Abitanti: 20.743.000. Clima: clima tropicale monsonico, caldo umido. Forma di governo: repubblica. Lingua ufficiale: singalese, tamil, inglese. Fuso orario: 5 ore e 30 minuti avanti rispetto al meridiano di Greenwich e 4 ore e 30 minuti avanti rispetto all'Italia. Documenti: passaporto con almeno 6 mesi di validità, visto. Moneta: rupia indiana, una rupia indiana uguale a 0,016 euro. Religione: buddisti in maggioranza, induisti, cristiani e musulmani. Visto il bel tempo, ci accomodiamo in terrazzo. Qualche rumore entrerà nella registrazione, ma poco male. Come si può dire di no a una mattina di sole? Emanuele comincia il suo racconto introducendomi magicamente, è il caso di dirlo, l'isola. Lo Sri Lanka è un posto che può essere molto sognato e immaginato prima che di andarci, perché Ceylon, poi come si chiamava una volta, che è un nome che immediatamente evoca il tè, per chi beve il tè, è un luogo in realtà molto scritto, è un luogo che non affascina solo gli occidentali secondo un parametro dell'esotismo molto diffuso, ma anche gli stessi indiani. Uno dei fondamenti della cultura indiana è l'ultimo grande poema epico dopo il Mahabharata e il Ramayana, e nel Ramayana l'isola di Lanka, come viene chiamata, ha una importanza narrativa straordinaria, perché è il luogo dove abitano i demoni, quelli che rapiscono Sita, la sposa di Rama. Tutto questo poema è la ricerca, il recupero da parte di Rama della sua amata sposa, e i demoni, che sono anche non semplicemente dei cattivi, hanno anche una civiltà, hanno anche una ragione di essere nell'ordine cosmico, hanno la loro sede in quest'isola, tanto è vero che uno dei momenti più drammatici, intensi e popolari anche di questo grande poema indiano è quando il Hanuman, che è la scimmia che aiuta Sita e Rama a ricongiungersi, fa un balzo dalla punta dell'India, quella che oggi si chiama Kanyakumari, gli inglesi chiamavano Cape Comorin, e atterra nell'isola. E poi bisogna costruire un ponte quando c'è la guerra per far passare, e questo è una cosa che rimane molto nella cultura popolare, tradizionale, nel senso che l'isola è la patria di stregoni, è il luogo di sortilegi. C'è un forte tasso di irrazionalità, come dice Emanuele, che pervade l'isola, ma c'è anche il fascino del buddismo ad accompagnarci nel viaggio. Lo Sri Lanka è anche, diciamo, la patria, una delle patrie, assieme al Tibet, diciamo, una a nord, una a sud, del buddismo. È proprio in centri come Kandy, che diciamo è la capitale religiosa, che è venerata dai cingalesi proprio come centro propulsore del buddismo, si conservano incise in lamine d'oro i testi fondamentali del canone buddistico, ed è lì che viene elaborato proprio questo veicolo che è il Pali, che è una forma, diciamo, di alfabeto e di lingua della devozione buddista, e quindi insomma possiamo dire che Kandy corrisponde nel mondo buddistico a quello che potrebbe essere Assisi nel mondo cattolico, insomma una cosa, e quindi insomma diciamo che è fortemente, poi non so, da ragazzini si legge magari a scuola Marco Polo che parla di questi enormi rubini, che queste ricchezze straordinarie dell'isola, rubini grandi come un pugno addirittura, quindi i re sono sospettati di ricchezze, e i viaggiatori hanno sempre visto in questo luogo un luogo affascinante, ammaliante, appunto, anche il viaggiatore moderno che chiaramente non ha una concezione precisa del mondo magico o magari non conosce il buddismo, ha una sensazione di un luogo, di un'Asia molto selvatica ma nello stesso tempo misteriosamente accogliente. Un'Asia misteriosamente accogliente, che bella immagine! Ma cosa ha realmente spinto Trevi in Sri Lanka? Come spesso accade, è stato un libro. Per quanto riguarda me, oltre a delle suggestioni antiche, quello che mi attirava verso lo Sri Lanka era la grande ammirazione per un viaggiatore contemporaneo, un viaggiatore, diciamo, relativamente contemporaneo, che è in Sri Lanka negli anni 50, insomma, e che in un suo libro, lo scrittore si chiama Nicolas Bouvier, è uno svizzero di lingua francese, scrive questo francese un po' strano che hanno gli svizzeri, e l'esperienza fondamentale della sua vita è un viaggio lunghissimo in Asia che non riguarda solo lo Sri Lanka, perché lui partì dalla Svizzera con una macchina, con le famose Topolino, e attraverso l'Iran, l'Afghanistan, arrivò in India attraverso il Khyber Pass. Oggi sarebbe un viaggio impossibile, dovrebbe attraversare 10 guerre, e poi arrivò addirittura fino in Giappone. E la parte di forse più bella di questo viaggio è contenuta in un libro che si chiama Il pesce scorpione, ed è la cronaca di una residenza in una città che sta al sud, all'estremo sud dello Sri Lanka, ed è una città che nel 2004, nel dicembre 2004, è diventata tristemente famosa per essere stata violentemente colpita dallo tsunami. Emanuele si riferisce a Galle, la città dove lui torna sulle orme di Nicolas Bouvier, raccogliendo le sue impressioni nel libro L'onda del porto. È tutta una storia di rimandi letterari e suggestioni attraverso le esperienze degli altri, attraverso i racconti degli scrittori, ancora una volta riconosciuti come i migliori compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sri Lanka con Emanuele Trevi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo in Sri Lanka con Emanuele Trevi. Le sue parole mi hanno già portata nella magia dell'isola per arrivare finalmente a Galle, la città dove Nicolas Bouvier, uno scrittore svizzero a lui molto caro, ha vissuto l'esperienza raccontata nel suo libro Il pesce scorpione. Sì, perché Anche Trevi ha preso spunto da uno scrittore per cominciare il suo viaggio. E così riprendiamo il giro in questo smeraldo al collo del subcontinente, come definisce l'isola lo stesso Bouvier, ripartendo da dove eravamo rimasti, Galle. È una città che si ricorda soprattutto per un capolavoro dell'architettura coloniale. Pare che il nome venne dato dai portoghesi. Una delle tante etimologie che viene data è che sentirono proprio questi navigatori nel Cinquecento, entrati nella baia, nel porto, il canto di un gallo. E poi passò in mano agli olandesi, che costruirono un bellissimo forte, molto bello, una specie di tipica costruzione, diciamo, pentagonale, rinascimentale, anche simile, che ne so, per gli italiani al forte di Civitavecchia, progettato da Michelangelo, che si incunea in questo mare ed è un segno proprio della colonizzazione olandese. All'entrata ci sono gli unicorni della casa di Orange, ed è una delle più belle testimonianze del passato coloniale che c'è in Asia, anche perché è una costa molto bella, insomma, è bella e mortale. E di nuovo Trevi fa riferimento alla natura, che da queste parti può essere davvero matrigna, e mi racconta una cosa molto interessante, che anche quando Marco Polo, secoli prima dello tsunami del 2004, andò da quelle parti, raccontò che le vecchie carte a sua disposizione avevano molti chilometri in più di costa. Quindi capì che il luogo era ogni tanto soggetto a eventi naturali di grande importanza, in grado di ridisegnarne la geografia. Invece il libro di Bouvier rappresenta un'esperienza. È un viaggio immobile in realtà, perché lui non fa altro che vivere in questo luogo e osserva uomini e insetti, soprattutto perché è affascinato dalle lotte, dalle guerre degli insetti che si svolgono nella sua stanza, nella sua casetta, e si trasforma. È un uomo ancora molto giovane, un uomo che sta rinunciando a un amore, che capisce che la sua passione per il viaggio lo porterà a delle rinunce. Lui però lo fa perché deve trasformarsi, perché sente che il momento di arrivare a casa non è ancora tornato, e appunto di questo lunghissimo viaggio lo Sri Lanka rappresenta proprio, è centrale, perché viene dopo appunto l'Asia, che descrive in un libro che si intitola La polvere del mondo, e prima del Giappone, che descrive in un altro libro che si intitola Il suono di una mano sola. In questa trilogia il pesce scorpione è il momento culminante, il momento in cui noi sentiamo, senza che ci racconti degli eventi molto particolari, cioè una specie di diario, che qualche cosa nell'animo di questo uomo, nella sua, che cos'è l'anima poi, non è nemmeno un concetto religioso, è semplicemente quella sfera di sensibilità attraverso la quale noi reagiamo al mondo, e quel luogo sottilmente, magicamente lo sta costruendo, come se noi fossimo un'argilla che in un momento molto ancora primaverile della vita, si tratta di un uomo protagonista del libro a poco più di 20 anni, venisse come tornita dalle mani di un vasaio misterioso. Quindi quello che era si conserva, ma diventa un'altra cosa, e grazie alla straordinaria capacità di Bouvier di afferrare questo elemento. Questo è un elemento molto raro e prezioso negli scrittori. Gli scrittori di viaggio possono essere anche molto più efficaci di Bouvier nel descrivere opere d'arte. Da quel punto di vista il libro di Bouvier è molto deludente, non c'è nemmeno molte pagine su quella che è la cosa più evidente di Galle, che è questa fortificazione olandese. Suona da tutti o da te. Viaggiare inseguendo il racconto di uno scrittore. Viaggiare cercando di ripercorrere le sue esperienze, rivivere le sue emozioni. Questo è quello che stiamo facendo insieme a Emanuele Trevi in questa chiacchierata. Diciamo che generalmente noi vediamo nel viaggio qualche cosa che ci arricchisce, ci porta del piacere per chi va al mare, ci porta delle conoscenze per chi ama i luoghi archeologici, ci porta delle esperienze. Invece a un certo punto di questo libro del Pesce e Scorpione, Bouvier dice: un passo verso il meno, ogni passo verso il meno che facciamo è un passo verso il meglio, cosa che io condivido molto. Io credo che la cosa più importante nel viaggio sia proprio dimagrire sia fisicamente, che non fa mai male, ma proprio che la testa dimagrisca, che la testa perché in questa vita che noi facciamo, in cui siamo completamente totalmente affollati di informazioni, l'esperienza che ci concede il viaggio, paradossalmente, e questo ha rovesciato completamente il senso del viaggio fino agli inizi del Novecento, non è quella di apprendere di più, di caricarci di nozioni, ma in qualche maniera di fare una dieta, di concentrarsi quindi su cose minime. Appunto, le pagine forse più belle del libro di Bouvier sono quelle in cui lui spia queste guerre di insetti che avvengono nel pavimento della sua casa. Insetti. Mi viene in mente una frase che ho sottolineato nel libro e che mi sembrava così precisa nel descrivere una scena che tutti abbiamo visto centinaia di volte. Quella di uno scarafaggio ribaltato sul dorso che sa di essere spacciato e che muove incessantemente le zampe in aria. Tradotta in pura emozione da Bouvier con il battito delle zampe che telegrafano malinconici addii. Ma la letteratura di viaggio è anche questo, il saper cogliere l'elemento di trasformazione in ogni cosa, come prosegue Trevi. Ma perché è così importante trasformarsi? In realtà è l'unica risposta che si può dare è che se si parte con l'idea di avere un solo destino, il viaggio porta sulla soglia di un'intuizione, nemmeno facile da spiegare filosoficamente, razionalmente, cioè che noi possediamo in realtà molti destini, che quindi possiamo slittare da un destino all'altro, quindi vedere le cose con occhi completamente nuovi. Questo in realtà appunto è una cosa che innumerevoli viaggiatori provano dentro di loro e pochissimi sanno esprimere. Per questo dico, la letteratura di viaggio in realtà sembra la cosa più facile da fare: basta andare in un posto, fare delle foto, tornare a casa e descrivere quelle foto. Invece no, perché alla fine come in un romanzo noi abbiamo bisogno magari di una trama che convinca, di personaggi che abbiano un'identificazione al di là dell'aspetto del mondo. Noi abbiamo bisogno di un'area, se no un'altra cosa è una guida, è un fatto oggettivo e non ha bisogno, può essere scritta più o meno elegante, ma non ha bisogno appunto di farci vedere un personaggio. Il personaggio che si mette in scena nel libro di viaggio è un personaggio complesso da realizzare, perché è qualcuno che deve spogliarsi di qualcosa, come accade appunto da Bouvier in Sri Lanka, oppure dall'altra parte arricchirsi di qualcosa, come accade nel viaggiatore tradizionale da Marco Polo in poi. Me guru pare, me dul aine, ape rahas et sang vila, ape rahas et liye vila. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sri Lanka con Emanuele Trevi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Emanuele Trevi mi sta portando in Sri Lanka. isola magica dal cielo istrionico. E sotto questo cielo ci sono secoli di storia che attirano viaggiatori da sempre, per arricchirsi o per trasformarsi, così come è giusto che sia quando si intraprende un viaggio. Lo Sri Lanka è un luogo ideale per questo, sembra quasi fatto apposta, perché è un luogo che contiene anche una certa difficoltà nell'essere visitato. Nonostante gli inglesi abbiano costruito una meravigliosa ferrovia, ad esempio, che attraversa, è una cosa che è un'esperienza indimenticabile, perché è una di quelle antiche ferrovie coloniali elegantissime che attraversa dei meravigliose montagne tutte coltivate a tè, però diciamo che come molti paesi asiatici rispetto agli standard occidentali comporta dei viaggi molto faticosi. Alcuni luoghi sono inerpicati su delle montagne, per cui bisogna trasformarsi, se non in scalatori, perlomeno in camminatori abbastanza pazienti e disposti a faticare, anche in un clima molto umido e caldo. Ad esempio, il luogo più bello forse si chiama Sigiriya, che è una costruzione pazzesca, è una montagna a cui vengono scolpiti due immensi artigli, per cui sembra un leone, una delle cose più indimenticabili che si possa vedere, indimenticabile anche per la fatica che si fa per arrivare in cima a questo luogo, e si sale come su un gigantesco animale, e sulle pareti sono dipinte alcune delle più sensuali immagini di donne, saranno delle schiave, quello che una volta si chiamava le odalische, addirittura così pornografiche, potremmo dire, da essere considerate da certi viaggiatori un po' imbarazzanti, insomma, no? Viaggiatori, non so, degli anni 30, e quindi ecco, solamente quel luogo, diciamo, che può valere tutta la fatica che si fa a raggiungerlo, perché si viene sopraffatti da immaginare una montagna abbastanza alta che è trasformata in una specie di immenso mostro di pietra che contiene al suo interno delle bellissime rovine, e mentre si sale su si vedono questi affreschi di una sensualità che in quel momento uno non si aspetterebbe. Bellezze legate alle costruzioni umane e bellezze legate anche alla natura e agli animali. Adesso mi sta per condurre in un luogo molto commovente. Peccato che una sirena dalla strada rompa un po' la magia del racconto. C'è questa fauna meravigliosa, chiaramente gli elefanti, che sono un po' il simbolo, sono elefanti enormi, però tra l'altro c'è un luogo molto commovente vicino alla capitale che si chiama Pinnevala, che è un orfanotrofio per elefanti, che è una cosa bellissima, perché durante la guerra e poi anche per gli effetti del disboscamento gli elefantini tendono a perdere la mamma, diciamo, e gli elefanti sono, come tutti i pachidermi, hanno un'educazione paragonabile quasi a quella dell'uomo, non sono animali che entro un anno si svezzano e si fanno la loro vita, devono molto seguire, devono molto imitare i comportamenti, i sentieri nella giungla attraverso cui la mamma si procura il cibo, determinata frutta, insomma. E quindi è molto bello perché ci sono questi elefantini e a una certa ora c'è il biberon, per cui si vede questa fila di elefantini che prendono con la proboscidina il loro latte, insomma, un luogo molto commovente. Hada vedi karuna kerala kandivoni siripavetta Il viaggio prosegue dalla costruzione con disegni sensuali alle pareti a Sigiriya fino all'orfanotrofio per elefantini a Pinnevala. Adesso ci spostiamo un po' più a sud. Poi sono andato in macchina verso il sud e questo non è solo dello Sri Lanka, però è una sensazione molto forte di una vita che si svolge interamente sulle strade, vita assolutamente non igienica, vita di poveracci, no? Cioè diciamo che per centinaia di chilometri si viaggia tra baricchini alimentari, questo traffico un po' allegro asiatico, fumi innominabili che escono da autobus vecchissimi, cagnolini che guardano questo passaggio, bambini, vecchi. Questa vita in realtà è drammatica, cioè è come se l'antico villaggio indiano fosse stato allungato, messo attorno alle strade. Drammatica perché è una vita che si svolge dentro un inquinamento inimmaginabile, dentro condizioni anche di grande povertà, però l'effetto anche poi è una parte della verità, è quello di una straordinaria allegria, come se qualche cosa di un po' pinocchiesco, come dire, una specie di paese dei balocchi, però di miserabili, ecco. La vera impressione, quella che è veramente questa isola fantastica, la si ha quando si abbandonano le strade costiere e si percorrono andando verso i grandi santuari buddisti, verso Kandy, verso Sigiriya, verso l'interno delle diciamo zone rurali, che sono molto contrassegnate dalla presenza di delle specie di gobbe nere, che sono i bufali che vivono nel fango, per cui uno poi si avvicina e... Uno si avvicina e prende spavento. Ma l'isola è sempre più affascinante nelle parole di Emanuele, che un giorno si è fatto trascinare dalla magia del luogo, inseguendo nella foresta un'iguana e capitando, dopo una lunga camminata, come racconta nel suo libro, in un luogo incredibile. Quindi, insomma, ecco, se uno è disposto un po' soprattutto a camminare, a mio parere, i luoghi rivelano il massimo dei loro segreti camminandoci, non documentandosi particolarmente. Non c'è bisogno di leggere molti libri o di sapere la storia del buddismo, bisogna anche avere una certa, diciamo, è possibile perlomeno esercitare una certa innocenza, per un archeologo hanno altri doveri, insomma, ma le persone normali possono essere affascinate dalle cose. Io parlo di Sigiriya, adesso non saprei dire in che secolo, è stata credo VII secolo, dopo che insomma non... Sono le situazioni, molto più delle nozioni, a condurti nel viaggio. Sono le emozioni che certi posti ti sanno suscitare, certe persone. Perché il viaggio deve essere anche innocenza, come dice Emanuele. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sri Lanka con Emanuele Trevi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Le immagini che i racconti di Emanuele Trevi sollecitano nella mia mente sono tante. La magia, i demoni, la natura, è tutto amplificato in Sri Lanka. E l'immagine che sta per darmi adesso mi lascia davvero senza parole, perché insieme alle infinite capacità dell'uomo di adattarsi alla geografia, c'è la solita natura con la quale si deve fare i conti in questa parte del mondo. Sul mare invece c'è una cosa, ecco, che è indimenticabile, che può essere molto usata anche dalle cartoline, non sto dicendo niente di una vera follia, che però chiaramente è una sapienza secolare, che è sono dei pali messi poco lontano dalla riva, perché la pesca più diffusa nello Sri Lanka, al di là dei pescherecci, delle cose che portano tanto pesce, si fa con la lenza arrampicati su delle specie di pertiche in mezzo al mare. Questa è una cosa molto strana, molto buffa, sembra un quadro surrealista, ma invece questi pali sono ereditati di padre in figlio, la loro posizione che dipende dalle correnti è importantissima, e quindi si vedono queste persone che stanno così arrampicate in mezzo al mare, pazientissime, con le gambe attorno a questo palo. Quando c'è stato lo tsunami ha cambiato le correnti, quindi è stato un problema per questa specie di... Lungo tutta la costa dello Sri Lanka si pesca così, e questa è un'immagine indimenticabile, perché ovviamente l'uomo poi è un animale straordinario, perché è bizzarro, impara come fare il suo utile in una maniera sempre diversa, e questa è un'immagine, però dico, a mio parere, come in tutte le isole del mondo contemporaneo, se si va proprio in cerca dell'atmosfera, di quell'odore un po' eccetera, bisogna un po' abbandonare le coste, perché le coste sono molto costruite, molto, anche se poi in Sri Lanka ci sono, soprattutto al sud, delle zone ancora non invase dal turismo, dove si possono passare dei giorni straordinari su spiagge deserte. Certo, fa impressione, quello è un mare assassino. Cioè, dopo il 2004 abbiamo coscienza di quello, anche perché sono anche dei fenomeni che si sono verificati. Sembra così placido, eccetera, invece può spazzare il... Una forza capace di sconvolgere l'assetto delle coste è certamente una cosa inimmaginabile, un'apocalisse. E Trevi aggiunge un piccolo consiglio a tutti i viaggiatori. Ecco, un'altra cosa dei viaggi che è molto proficua è sempre ricordarci, soprattutto se viviamo in una città, che il mondo non è stato fatto per noi, che ha delle forze... forse questa è la vera magia. La magia in realtà non sono gli incantesimi, è considerarsi all'interno di un campo di forze più vasto di quello più vasto, più potente, più distruttivo anche. Adesso stiamo parlando dello tsunami, che chiaramente ha reso famoso tristemente lo Sri Lanka in tutto il mondo, ma anche la forza stessa della giungla, dove ancora c'è una cosa che sovrasta, non ha, dice, c'è un sentiero, tu percorri quel sentiero, però a destra e a sinistra hai l'impenetrabile. Insomma, bisogna sempre, noi abbiamo forse colpevolmente, la parola naturale ci indica i prodotti da erboristeria, il sapone buono, mangiare bene, ed è giusto che sia così, però diciamo la natura è una madre o matrigna, a seconda di quello che se ne pensi, potentissima, che l'individuo non lo considera proprio. Cioè, si può discutere se rispetto alla specie, diciamo, l'uomo in generale, da i primi a noi in migliaia di anni, ma l'individuo non esiste per lei, non ha diritti. Quindi sempre quando si parla di viaggi bisogna dire: state attenti dove mettete i piedi, perché il mondo non ti considera proprio. Siamo alla fine del nostro viaggio in Sri Lanka. Emanuele Trevi ci ha fatto vivere le emozioni delle bellezze naturali di quest'isola insieme all'atrocità di certi eventi catastrofici come lo tsunami, in grado di spazzare via parte delle coste. Quello che è difficile spazzare via, fortunatamente, sono le tradizioni. Bisogna rapportarsi, comunque questo è il problema dei problemi, bisogna rapportarsi a questa, a quella civiltà, diciamo, con il massimo rispetto, considerando ancora che ci sono anche nella capitale dei modi di vita molto tradizionali, i matrimoni vengono combinati dalle famiglie quando magari due sono dei ragazzini, ma questo non implica che poi non siano matrimoni felici, anche perché quanti matrimoni infelici facciamo noi non combinandoli? Magari uno dice, se te li combinavano era pure meglio, cioè l'umanità è fallibile di per sé. C'è una grande persistenza delle tradizioni. Questo però non significa che l'occidentale che viaggia è rispettatissimo. Paesi buddisti comunque sono paesi miti, sono paesi in cui c'è una certa relativizzazione dei costumi. Penso, due viaggiatori omosessuali non hanno problemi a viaggiare in Sri Lanka. La persistenza delle tradizioni nella capitale, poi figuriamoci, dico la capitale e poi nelle campagne, così è un fatto che si nota nei rapporti con le persone, che poi sono rapporti molto cordiali. Mi ricordo sempre un episodio, una volta ero terrorizzato, ero in un posto in campagna, da un serpente che si alzava, arrivava quasi alla mia testa, e io ero sicuro che ero gli ultimi secondi della mia vita, no? E proprio una persona scese da una macchina, proprio lì, in mezzo alla strada, la fila di macchine, la prese per la testa, lo buttò via, mi fece un cenno come dire, ti sei spaventato, dimentica questa cosa, e cioè risalì in macchina. E questo è un fatto minimo, che uno poi, sono quelle cose, diciamo, di come fanno gli italiani, cioè di spontanea curarsi di una difficoltà del prossimo. Il viaggio con Emanuele Trevi è finito. Mi viene in mente una frase di Kipling: ci sono due tipi di uomini, quelli che stanno a casa e quelli che non ci stanno. Io sono sicuramente del secondo tipo, e voi? Ora Emanuele Trevi è in libreria con Il libro della gioia perpetua, edito da Rizzoli. Attenghi libero.